Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Oggi vi parliamo delle nuove norme sul distacco dei lavoratori all'esame del Parlamento, della galleria ferroviaria di base del Brennero, sotto la quale i primi treni dovrebbero circolare tra 10 anni, e ancora del corridoio doganale tra il porto di Trieste e la Baviera, destinato ad aumentare e velocizzare il flusso delle merci. Il distacco dei lavoratori è un istituto ormai consolidato, la norma che lo disciplina risale infatti al 2003. Nel corso di questi anni però talvolta si è trasformato in uno strumento per aggirare le regole del mercato del lavoro. In particolare è avvenuto in certi settori, in particolare proprio nel mondo dell'autotrasporto, che ha visto il mercato inquinato da pratiche e abusi sempre più diffusi e tali da favorire il fenomeno del cosiddetto dumping sociale, cioè autisti che operano in Italia alle dipendenze di imprese straniere, le quali applicano contratti di categoria diversi da quelli stipulati nel nostro paese e chiaramente meno onerosi. E sempre più di frequente sono le stesse imprese italiane a delocalizzare per poter applicare queste condizioni e competere così ad armi pari. Da tempo le associazioni del mondo dell'autotrasporto sollecitano governo e Parlamento ad intervenire. A breve dovrebbe essere approvato un decreto legislativo, attualmente al parere della Camera, che pone regole più chiare e condizioni più rigorose in materia appunto di distacco dei lavoratori su base transnazionale. Ma qual è stato finora l'impatto dell'abuso di questo strumento nel mondo dell'autotrasporto? Lo abbiamo chiesto ad Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti e Unatras. È una piaga di cui da alcuni anni ci lamentiamo, anzi direi da molti anni ci lamentiamo, in cui non era mai stato messo mano. Quando definiamo la partita come dumping sociale, avevamo una concorrenza sleale dai vettori esteri, ma non solo dai vettori esteri, ma anche dai vettori italiani che assumevano, se si può dire assumere, dei dipendenti in distacco o in somministrazione, dei contratti che abbassavano circa, rispetto ai nostri contratti, di circa 1200 euro mensili il costo del lavoro del dipendente, perché venivano versati contributi in questi stati dei paesi dell'est in cui il costo del lavoro è molto inferiore a quello italiano. Dicevamo che ora il Parlamento sta per varare nuove norme. Lo schema del decreto è ormai definito, sentiamo cosa prevede. Si va a sancire, a valutare degli aspetti importanti di comunicazioni. Finalmente l'impegno, a mio avviso, importante del Ministero del Lavoro sta portando avanti queste nuove regole. Nuove regole che per sintetizzare, chi assume dipendenti in distacco e somministrazione entro le 24 ore del giorno deve fare la comunicazione, deve comunicare nome e cognome, cioè vari adempimenti, e il Ministero del Lavoro dopo valuta lui direttamente, quindi DPL faranno una valutazione se questo distacco, questa somministrazione è autentica. Se la somministrazione non viene considerata autentica, scattano delle sanzioni importanti che dovrebbero risolvere, diciamo, alla radice il problema di questa difformità che esisteva fino ad oggi. A proposito di sanzioni, ecco cosa rischiano non solo le imprese, ma anche i committenti, visto che sono corresponsabili delle eventuali irregolarità commesse durante un servizio di trasporto. Verrebbe sanzionato, nel caso in cui il distacco non venga considerato regolare, una sanzione di 50 euro al giorno, ma non inferiore ai 5.000 euro. E addirittura potrebbe essere che il lavoratore non autentico venga obbligato all'azienda ad assumere il lavoratore. E ora torniamo al Brennero. Il piano presentato a fine aprile dalla polizia austriaca resta sulla carta, e così la barriera al valico e l'inasprimento dei controlli sull'autostrada, con tutto quello che misure di questo genere indurrebbero sul flusso delle merci tra Italia e Austria. Solo al Brennero, come sottolineiamo ormai da mesi, ogni anno transitano 2 milioni di TIR. Nel frattempo, sempre al Brennero, proseguono i lavori per la costruzione della galleria ferroviaria di base. Sarà pronta tra 10 anni e con i suoi 64 chilometri conquisterà la palma del tunnel più lungo al mondo, superando così quello del Gottardo, la cui inaugurazione avverrà tra una quindicina di giorni, il 1 giugno. Una volta che i primi treni circoleranno nella galleria del Brennero, come cambierà il flusso di merci tra l'Italia e l'Europa? Abbiamo intervistato Giampiero Strisciuglio, responsabile della direzione commerciale di RFI. Sicuramente il tunnel del Brennero consentirà di incrementare ulteriormente la quota di traffico del settore merci e di migliorare anche le condizioni di trasporto dei viaggiatori all'interno del corridoio Scandinavia-Mediterraneo. Stiamo lavorando come Rete Ferroviaria Italiana per consentire che questo progetto si collochi in un contesto più ampio di interventi che ci consentano di arrivare allo scenario di attivazione di questa importante opera anche con miglioramenti progressivi sulla qualità del trasporto di merci e persone. A proposito del trasporto di merci, la parola chiave di questi anni sarà l'intermodalità. Assolutamente sì, stiamo lavorando in quest'ottica, abbiamo un piano commerciale condiviso con le strutture ministeriali che ci traguardano una serie di interventi finalizzati allo spostamento di una maggior quota di trasporto delle merci sul ferro. Rimaniamo sull'asse tra il nord-est e il cuore dell'Europa. Nei giorni scorsi a Trieste è stato firmato un protocollo d'intesa per favorire i collegamenti e quindi il transito delle merci tra il porto Giuliano e la Baviera. In particolare l'obiettivo è realizzare un corridoio doganale privilegiato attraverso il quale le merci provenienti dall'Asia dirette in Germania possano correre favorite da procedure burocratiche semplificate. Insomma, uno scenario in controtendenza rispetto al quadro che si determinerebbe se mai le minacce dell'Austria dovessero prendere forma ai confini. Su questo abbiamo sentito il commissario dell'autorità portuale di Trieste, Zeno D'Agostino. Il ragionamento parte prima, quindi da questo punto di vista diciamo che già da tempo stiamo parlando di creare un corridoio doganale tra il porto di Trieste e Monaco. Però devo dire che questa chiusura delle frontiere probabilmente aiuta anche a fare ragionamenti di semplificazione e di ottimizzazione dei flussi tra il nostro porto e Monaco. Considerate comunque che il porto di Trieste già oggi fa un treno giornaliero con Monaco di container che vanno verso la Baviera in import, che arrivano sul nostro porto dal Far East, e invece di container che in export appunto partono dalla Baviera e utilizzano i servizi transoceanici appunto del nostro porto per andare sui mercati finali. Per cui ecco, esiste già un traffico, il corridoio doganale andrebbe a semplificare tutta una serie di aspetti burocratici e di tempistiche che oggi insomma possono essere un vincolo a quello che è lo sviluppo ulteriore di traffico. E a proposito di intermodalità, cioè una delle linee strategiche indicate dal Ministero dei Trasporti a favore di un sistema logistico più competitivo e sostenibile, il porto di Trieste si è ormai candidato come modello virtuoso. Ancora D'Agostino. L'anno scorso abbiamo fatto più di 5.000 treni intermodali, che significa appunto una quindicina di treni al giorno che arrivano e partono da tutte destinazioni, tra l'altro internazionali. Noi siamo un porto che ha collegamenti intermodali e ferroviari che vanno dal Lussemburgo fino alla Repubblica Ceca, all'Ungheria, Austria, Germania, quindi insomma diciamo che il porto ormai è internazionale ed è internazionale grazie all'intermodalità. Quest'anno stiamo facendo numeri importanti, stiamo crescendo quasi del 25% dal punto di vista ferroviario, per cui contiamo di arrivare complessivamente a circa 7.000 treni, che sarebbe un po' il record nazionale per i porti italiani, quindi sarebbe la top dal punto di vista della ferrovia. E di questi 7.000 treni, una buona parte, circa 5.500, sarebbero treni intermodali. Torniamo sulle strade, dove il processo di rinnovo delle flotte dei veicoli commerciali e pesanti sta riprendendo dopo gli anni difficili della crisi che, tra gli altri effetti, ha provocato una pesante contrazione degli investimenti e quindi delle immatricolazioni di mezzi nuovi. Gli ultimi dati relativi ad aprile diffusi da Anfia e Unrae confermano pienamente la tendenza. Per quanto riguarda i veicoli commerciali, le immatricolazioni sono ancora salite del 32,2% rispetto all'aprile 2015. Su base quadrimestrale l'aumento si assesta sul 30%. Ancora più significativo il balzo delle immatricolazioni di autocarri, un mercato che si è risvegliato più di recente. Addirittura su base mensile l'incremento è stato del 61%. Aumentano anche le immatricolazioni di rimorchi e semirimorchi pesanti, più 32%. Sul fronte del flusso di veicoli invece il barometro segna, diciamo così, una situazione stazionaria, almeno stando ai dati diffusi dall'Osservatorio del Traffico di ANAS. Ad aprile sono stati confermati gli indici di mobilità rilevata registrati 12 mesi prima. Per quanto riguarda il traffico pesante invece c'è il segno più. più 3% rispetto ad aprile 2015, più 1% rispetto allo scorso marzo. Questa puntata di Hashtag Autotrasporti finisce qui, noi ci risentiamo lunedì prossimo da Andrea Ferro. Buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.